Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson, capitolo 13. Il taxi si fermò davanti al Globe, un vecchio edificio di mattoni a tre piani in Eric Street, vicino a Clark Street. Un tempo era stato un pensionato maschile. Salì le scale e fu accolta da un impiegato al banco. «Sei la ragazza di Bill?» annuì. Egli premette un pulsante dietro al banco e aprì una porta. Comparve Rudy. L'interno, un tipo butterato dal vaiolo, con le sopracciglia sporgenti e i piedi puzzolenti. «Da questa parte puoi spogliarti in questa stanza. Ce l'hai un pagliaccetto?» Tirai fuori dalla borsetta le cose che Bill mi aveva procurato la sera prima. Un tubetto di vasellina, una saponetta germicida, una boccetta di disinfettante, poi il rossetto, il belletto, la cipria e il pettine. Rudy prese il mio fagotto e lo depositò in una stanzetta che era detta stanza delle fughe, perché vi si apriva un passaggio segreto verso l'esterno. Uno dei pannelli del rivestimento in legno ruotava su cardini e dava accesso a una piccola apertura tra i piani, attraverso la quale si poteva raggiungere il tetto. Le ragazze potevano camminare lungo il tetto fino a una scaletta che portava ad un altro tetto, in cima alla quale c'era una cupola dove si potevano nascondere in attesa che la polizia se ne andasse. Dopo avermi spiegato come si faceva a scappare, Rudy mi riportò indietro e mi presentò Margaret, la maîtresse di colore, una mulatta poco più che trentenne. Mi chiese il nome e io gli dissi Berta. «Cara, abbiamo già una Berta, perciò ti chiamerai Dotti», mi spiegò. «Qui lavoriamo a turno, finché tutte hanno beccato. Poi va a scelta. Tu prenderai il prossimo che entra, a meno che sia l'amico di qualcuno. Siediti». Eravamo in una stanza grande, in un salone pieno di specchi, con il pavimento rivestito di linoleum. Era ben illuminato, non c'erano sedie, ma una panca correva lungo le pareti su tre lati della stanza. Le ragazze che aspettavano il loro turno erano sei, altre tre erano impegnate, e le conobbi più tardi. «Questa è Edna, ti mostrerà come lavoriamo qui». Edna, o la francese, come la chiamavano le ragazze, svezzava la maggior parte delle nuove arrivate. Aveva i capelli biondi decolorati e pesava quasi 100 chili. Fui contenta di vedere qualcuna più grossa di me. Edna lavorava più di tutte le altre, ma non guadagnava di più, perché era soltanto una puttana da $2. Accanto a lei sedeva Lorraine, la ragazza di Pollack, il manager. Era alta, ben formata, rossa di capelli. Faceva sempre il tetto, ovvero guadagnava più soldi di tutte. Poi c'era Jackie, una piccoletta con il naso aquilino che la faceva sembrare un porcellino d'India. Jackie era un amante dei negri. Il suo protettore era un uomo di colore. Non era tanto brava a far scuscire soldi ai clienti ed era conosciuta come la puttana a tre vie. Ma tra tutte era quella che aveva i vestiti più belli. Irene era magra, scura di carnagione sulla trentina. Non faceva tanti giochetti come Jackie, ma lavorava sodo e tirava su un bel po' di soldi. Chiki, una bionda ossigenata, non sembrava tanto giovane e aveva un viso scialbo, incolore. Era madre di due bambini e il suo uomo faceva il giocatore d'azzardo. Nell'angolo sedevano Dolly e June, che parevano due statue, con i capelli pettinati all'indietro e i volti inespressivi. «Quelle lo fanno alla francese e sono anche lesbiche», mi sussurrò Edna. vivono tutte e due con Earl Walker, un magnaccia negro del South Side. Catherine era una trentenne matura e pensosa, che stava sempre con un libro in mano quando non era impegnata con i clienti. Il suo protettore Scotty era secondino nel carcere della contea. «E così vuoi diventare anche tu una puttana da $2», mi disse. «Complimenti, se rimani più di 60 giorni puoi star certa che questo è il posto tuo. Può capitare a tutte di finire per caso in un bordello, ma se una ci resta vuol dire che ha il mestiere nel sangue». Peggy, una bionda ossigenata tutta pepe, era come una pantera. Aveva una lingua tremenda e appena le capitava per le mani un uomo in odore di soldi attaccava. «Oh, paparino, sei uno schianto, sei un amante fantastico, perché non mi porti via con te? Dammi $20, così pago i miei debiti con la banda e ci troviamo fuori». Il suo magnaccia era Sal Rubenstein e ogni sera veniva a prenderla con un enorme Lincoln. L'ultima ragazza che conobbi il primo giorno fu Alabama, una brunetta smilza e patita che aveva tutta l'aria di essere tisica. Era una commediante, cantava, raccontava storie e barzellette ed era quasi sempre sbronza, nonostante le regole della casa che vietavano alle ragazze di bere troppo. Faceva buoni affari, piaceva a tutti i clienti, aveva due protettori, un tassista sposato con due figli che si faceva mantenere da lei e un barista di nome Kelly che lavorava in un albergo nel Loop. «Ha detto a Kelly che il tassista è suo marito», mi raccontò Catherine. «Lui sa benissimo che è una balla, ma se ne frega perché lei gli passa la maggior parte dei soldi che guadagna». «C'era un gran giro di ragazze», mi spiegò Margaret. «Tutte avevano un protettore. Scoprì che il Globe era controllato dal sindacato e che a capo di tutta la baracca c'era un misterioso personaggio che non vidi mai. Lo chiamavano il vecchio. Non veniva mai da noi, ma ogni tanto le ragazze lo incontravano nel suo locale notturno. Il gestore della casa era Pollack, un tipo con un gran naso sifilitico, strabico, pelato, soprannominato affettuosamente lo schiavista. Oltre a percepire un regolare stipendio, si faceva mantenere da quattro donne. Una, Lorraine, lavorava da noi e le altre tre in diverse case del sindacato. Dopo di lui, la massima autorità era Rudy, l'interno. Poi veniva Bracciole di Maiale, un povero Cristo d'italiano con un vestito sempre unto e bisunto, che stava fuori all'angolo a fare il palo. Quando arrivava la polizia, ci avvertiva che era giunto il momento di andare a prendere aria in soffitta, cioè di scappare. L'accalappiatore, quello che stava davanti all'ingresso ad attirare i clienti, lo faceva il Guercio, un ragazzo di 20 anni, alto e dall'aria un po' ebete, rimasto cieco da un occhio a causa di una blenorragia che si era preso usando un asciugamano lasciato in bagno dalla madre. Il Guercio era l'unico della casa che non avesse una donna ed era sempre in caccia. Infine c'era Rocky, mastica tabacco, un italiano grande e grosso che aveva sempre una cicca in bocca, faceva commissioni un po' per tutte e recapitava messaggi da una casa all'altra. Era l'uomo di Irene e le ragazze l'avevano soprannominato il morto di fame, perché lei gli dava soltanto $1 al giorno. La persona con la quale avevamo maggiormente a che fare era Margaret, la maîtresse. Quando arrivava un John, un cliente, lo si conduceva nel salottino, dove una mezza dozzina di ragazze era sempre in attesa. Il cliente ne sceglieva una e se la portava in camera. Non appena erano soli, la ragazza gli chiedeva i soldi. La nostra era una casa da $2, ma quando capitava uno da fuori che non ci conosceva, cavano sempre di spillargli il massimo. Ci avevano insegnato a dire «dammi $5 e vedrai che ti faccio divertire». Se il cliente esitava, dovevano dire «per $3 mi tolgo tutti i vestiti». Quando un tassista ci portava un sacco di clienti prima che gli uomini entrassero nel salottino, la maitresse diceva: portiere, e ciò significava che dovevamo chiedere il massimo, perché al tassista spettava una commissione di 4 dollari su 10, di 2 su 5, di 1 su 3. Non era consentito chiedere meno di 5 dollari ai clienti portati dal tassista. Poi c'erano le eccezioni. Se arrivava un cliente buono, che aveva molti soldi da spendere, la maîtresse ci avvertiva, dicendo venerdì. Se era un cliente da 5 dollari, diceva festa, e se era da 10, doppia festa. In questo modo si evitava che qualche ragazza un po' stramba si facesse pagare meno del dovuto. Margaret aveva il compito di tenere nota dei clienti e di quanto spendevano. Non appena il cliente ci pagava, andavamo da Margaret e acquistavamo dei buoni in alluminio, che assomigliavano ai gettoni di ottone che si usavano una volta per pagare la birra. Con 2 dollari si aveva diritto a un buono da 5 centesimi, con 3 dollari si acquistava un buono da 10 centesimi, che era un po' più grande. Per 10 dollari davano 2 buoni da 10 e 2 da 5. Quando arrivava ad avere 100 dollari in cassa, Margaret li dava a Pollack, che a sua volta li consegnava a Solly, l'esattore. Solly veniva a ritirare 2 volte al giorno con una borsa e 2 guardie armate fino ai denti. Doyle, un ex agente di polizia e un tale soprannominato l'indiano. I due portavano il denaro a Newland Hotel, che apparteneva al vecchio. Questi controllava una trentina di locali tra bordelli e sale da gioco ed era a capo del sindacato del North Side. Ma nessuno dei locali era di proprietà sua e dei suoi soci. Mettere in piedi un locale del genere era facile, scoprì. Bastava prendere in gestione un vecchio albergo, eventualmente lasciando al proprietario il compito di mandare avanti l'attività. Il vecchio si limitava a curare l'organizzazione, procurava le ragazze e il personale e otteneva la protezione della polizia. Il proprietario e il precedente gestore dell'albergo avevano diritto a una percentuale variabile tra il 25 e il 50% della quota degli incassi che spettava al vecchio. Alle ragazze veniva fatto credere che la protezione della polizia costasse un 10%. Ma Pollack, che era nel giro da anni, mi disse che la polizia prendeva molto poco. Il vecchio aveva un appoggio in municipio, contribuiva con cospicui finanziamenti a tutte le campagne elettorali, sia democratiche che repubblicane, regalava soldi a tutti i politici, era generoso con i poveri e tutte le settimane versava alla polizia circa 200 dollari per ciascuno dei locali. La maggior parte finiva nelle tasche del capitano, degli agenti e degli uomini della buon costume. L'organico del Globe, tra i turni di giorno e quelli di notte, era costituito da 20 ragazze. Ciascuna faceva in media 30 dollari al giorno, quando gli affari andavano bene. Non era raro che la casa realizzasse un incasso di 4 o 5 mila dollari la settimana. Avevo sempre pensato che la vita in un bordello fosse molto eccitante, e invece constatai con sorpresa che non c'era luogo più tranquillo. Etna mi mostrò come mettere la foderina a letto. I clienti non si toglievano mai le scarpe, perciò stendevamo una copertina all'altezza dei piedi, in modo che non sporcassero il copriletto. Poi mi insegnò come esaminare gli uomini e mi disse di non accettare clienti che avessero segni di malattie. Prima che Etna finisse di istruirmi, ebbe la netta sensazione di dovermi applicare con scrupolo a quel nuovo lavoro, proprio come aveva fatto quando ero stata assunta la prima volta come dattilografa. Sapevo che le altre ragazze erano molto più esperte di me e che avrei dovuto dimostrare di essere alla loro altezza. Ciò nonostante, il mio primo incontro con un cliente fu traumatico. Mi capitò un ungherese grande e grosso, sui 50 anni, con i baffi a manubrio. Fu rude e maldestro. Mi infilò le mani sotto la biancheria e mi pizzicò. ma non furono tanto le maniere forti a darmi fastidio, quanto le unghie sporche e l'alito cattivo che puzzava d'aglio. Dopo andò liscia con un'altra dozzina di clienti, finché mi capitò un vecchio di circa 70 anni dal viso glabro. Costui aveva perduto del tutto la sua virilità, ma volle che lo accarezzassi e lo baciassi e che cercassi di eccitarlo. Ci provai, ma invano. Mi faceva pena e avrei voluto aiutarlo, ma non ci fu nulla da fare. Verso sera mi toccò un cliente violento e prepotente. Appena lo vidi, presentii che ci avrebbe creato dei guai. Cominciai a chiedergli $5 e fu un errore. Poi peggiorai ulteriormente la situazione cercando di fargli sborsare $1 extra per vedermi togliere il pagliaccetto. Non era tipo da perdere tempo quello. Mi diede $2, poi mi sollevò di peso e mi scaraventò sul letto. Protestai, ma lui mi tenne con la forza. Chiamai Margaret e l'uomo maltrattò anche lei. Allora Margaret suonò il campanello e chiamò Rudy, il buttafuori. Questi arrivò seguito da Pollack e ci liberò dalle grinfie del bruto. Pollack gridò: «Dagliele!» e Rudy colpì l'uomo sulla testa con uno sfollacente appesantito con pallini di piombo. Mentre era privo di conoscenza, lo trascinarono fuori dall'uscita posteriore, lo caricarono su un'auto e lo scaricarono qualche isolato più avanti, in un vicolo sotto i binari della sopraelevata. Alcuni dei clienti si vergognavano, sceglievano una ragazza il più in fretta possibile, quasi senza guardarla, oppure cercavano di farsi passare per duri e azzardavano scherzi pesanti. Una volta un tale ben vestito, con un viso affilato e pensoso, mi scelse semplicemente avvicinandosi e posandomi una mano sulla spalla. Poi, quando fummo soli, non disse una parola. Lo tenni per qualche minuto tra le braccia, quando ebbe finito e uscendo mi guardò come un cane che avesse trovato finalmente da sfamarsi. Un altro, che per la verità era poco più che un ragazzo e per giunta ubriaco, scoppiò a piangere dopo aver fatto l'amore e mi disse di non essere mai stato in un posto del genere prima di allora. Tuttavia, i più erano clienti abituali, che avevano familiarità con la casa. In quella prima giornata, circa la metà dei clienti mi chiese di fare l'amore alla francese. Io risposi sempre di no. Alcuni cercarono di convincermi, altri minacciarono di chiamare un'altra ragazza, ma nessuno fece serie difficoltà, finché arrivò un italiano con il naso rincagnato, che al mio secco rifiuto protestò con Margaret, dicendo: «Ne voglio una che lo faccia alla francese. Non sono venuto qui per fare le solite cose. Per quelle mi basta mia moglie». Margaret disse qualcosa a Rudy, che venne a sedersi accanto a me. Mi offrì una sigaretta e ne accese una anche per sé. Piccola, un bordello è un posto dove si commercia e i clienti devono essere soddisfatti. Oggi pochi si accontentano di farlo alla solita maniera. Lo vogliono metà in un modo e metà nell'altro. Non è colpa mia. Non l'ho inventata io, la natura umana. Siamo in affari e se vuoi continuare il mestiere in una casa devi imparare a farlo alla francese e magari anche alla greca. Dai, non essere sciocca, basta farci l'abitudine e vedrai che così è anche più facile che nell'altro modo. Imparai in fretta. Alle altre ragazze non faceva né caldo né freddo. Edna mi disse: «Quelli che vogliono un trattamento speciale pagano di più». E ce n'è di tipi strambi, ma è la natura che li ha creati così. Che cosa ci vuoi fare? Alla fine della giornata avevo al mio attivo 40 prestazioni, cioè avevo soddisfatto 40 uomini affamati di sesso. Come tutte le altre ragazze, avevo un taccuino sul quale tenevo nota dei clienti. Ecco il consuntivo della mia prima giornata di lavoro come prostituta. 20 uomini a dollari 2 cada uno, dollari 40. 10 uomini a dollari 3 cada uno, dollari 30. 5 uomini a dollari 5 cada uno, $25. 2 uomini a dollari 4 cada uno, dollari 8. Tre uomini a dollari 10 cada uno, dollari 30, totale dollari 133. Alle 6:30 Margaret mi mandò all'ufficio a incassare. Avevo comprato buoni per 133 dollari e naturalmente mi aspettavo di incassare una somma pari alla metà di quella cifra, cioè 66 dollari e mezzo. Invece Pollack e Rudy contarono i miei buoni e mi diedero 40 dollari. «Perché soltanto 40 dollari?» domandai. «Io vi ho dato 133 dollari. Dove andavo? A scuola io, nel North Dakota, mi hanno insegnato che la metà di 133 è 66 e mezzo. Non sai come facciamo i conti qui?» mi rispose Pollack, prese una matita e me lo insegnò. Prestazioni, dollari 133, 50% per la casa, dollari 66 e 50, 10% per la protezione, dollari 60. «Vedi, piccola, se c'è una retata, pensiamo a tutto noi. Tu non ti devi preoccupare di nulla. Ti procuriamo un garante e tutto quanto.» «Beh, restano sempre 20 dollari scoperti», obiettai. «Ma che diavolo di differenza fa, visto che non ti devi preoccupare di niente? E poi ti abbiamo trattenuto 3 dollari per la maîtresse. Di solito le toccano 50 centesimi ogni 16 buoni. Ma per questa volta ti abbiamo addebitato soltanto 3 dollari perché sei nuova e non hai ancora tanti clienti. Abbiamo dato 2 dollari al guercio per i clienti che ha procurato. Come potresti guadagnare se non fosse per l'accalappiatore? Devi contare anche 1 dollaro a mastica tabacco che ti ha portato le sigarette, il caffè e da mangiare. Poi ti abbiamo trattenuto 2 dollari per gli asciugamani. Ne hai usate circa 4 dozzine e farli lavare costa mezzo dollaro la dozzina. Infine ti abbiamo comprato un pagliaccetto e 4 paia di calze, totale 12 dollari. Perciò i conti tornano. Protezione dollari 6,50, pagliaccetto e calze dollari 12, maîtresse dollari 3, accalappiatore dollari 2, commissioni dollari 1, asciugamani dollari 2. Totale 26 e 50 dollari. Capisci adesso? Da quanto tempo batti? Te la caverai meglio se non farai tante domande. Un po' delusa, accettai 40 dollari, senza altre recriminazioni, e me ne tornai stancamente in albergo. Non mi sembrava che l'esercizio della prostituzione mi avesse cambiata. Mi sentivo soltanto completamente esausta, come se avessi portato a termine una giornata di lavoro insolitamente duro. Quella sera Bill venne a trovarmi in camera, ma rimase giusto il tempo sufficiente per ordinare la cena, per dirmi «brava bambina» e «com'è andata» e per incassare i soldi. Mi lasciò appena 2 dollari. Ero troppo stanca per protestare. Volevo soltanto fare un bagno e andare a dormire. Ricordo di aver pensato, mentre mi assopivo, che mi ero lasciata prendere facilmente dal sistema di Bill. Era bastato un giorno per fare di me una puttana a tutti gli effetti. Era così che accadeva alle donne. Dopo il primo momento subentrava la routine. Come in ufficio o in fabbrica, al termine della giornata erano troppo stanche per riflettere. Bill non si offrì di venire a letto con me. Non avrei sopportato che mi toccasse. Aveva abbastanza esperienza per saperlo. Prima di addormentarmi, cercai di ricordare che cosa avevo provato tra le sue braccia, ma non ci riuscii. Continuavo a vedere le facce dei clienti con i quali ero stata quel giorno. Sapevo che sarei tornata al bordello e che non avrei mollato, se non dopo aver imparato tutto ciò che volevo sapere sulle prostitute e sugli uomini che le frequentavano. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che io so e ha ridotto già. Libri ribelli.